Italia in controluce. Buongiorno, buona mattina da Daniele Biacchisi. Oggi è il 30 marzo e Italia in controluce, il quotidiano di Radio 24 con taglio di magazine in onda tutti i giorni da lunedì al venerdì in due edizioni, 6.30, 13.30. La cultura e lo spettacolo racconta ogni giorno a quest'ora l'Italia. Dopo Paolo Fresu, trombettista con la Sardegna, dopo l'attore Rocco Papaleo con la Basilicata, oggi Vanessa Quinto intervista il regista cinematografico Mimmo Calopresti sulla Calabria. Com'è la Calabria? La Calabria tanto è difficile da definire, perché io le chiamo le Calabrie, no? Perché è molto diversa nelle sue province. Io dico sempre che Reggio, nella sua provincia, è il posto che c'è la più bella luce del mondo, perché il fatto che sta sullo stretto, c'è sempre una trasparenza con la luce lì meravigliosa. Ogni tanto guardando si sembra che si affaccia su un altro mondo, che è appunto la Sicilia, no? Sta veramente lontana da tutto il resto dell'Italia. Questa cosa qui si sente molto, però è molto affascinante anche questo suo può essere distante. Lo dice del campanilismo? No, sinceramente. Però c'è un po' di campanilismo fra città e città, mi dica la verità. C'è, però a me è successo questo, essendo uno di ritorno, nel senso che io sono un calabrese, ma nato, poi in realtà cresciuto, vissuto a Torino, da molti anni a Roma, e sono ritornato cercando di tornare a quella famosa cosa delle radici. Qui tutti siamo condannati, non riesco più a identificarmi, no? Quella è la mia città, quella è. La cosa più bella e la cosa più brutta in Calabria? Cosa più bella è veramente quest'idea di sentire che c'è ancora una vicinanza a qualcosa di molto antico che arriva da lontano. Quest'idea del Mediterraneo, di essere più vicina a un altro mondo, fatto di grande cultura. La brutta è la stessa cosa, perché poi quel modo di essere così legati al vecchio mondo, si porta a tutte le cose tragiche anche di questo. Si è distanti dal mondo, non si riesce a essere cittadini del mondo, dico io. E che io, mi dici della criminalità organizzata? La cosa peggiore che può capitare a una regione, perché sono loro i veri padroni del territorio. Si e quindi nella vita di tutti i giorni? Assolutamente sì, perché ovviamente quando uno pensa all'idea di criminalità organizzata eccetera, pensa a un mondo lontano. Lì invece è la vita delle persone di tutti i giorni, delle famiglie, del tuo vicino di casa, quello con cui devi parlare per fare un lavoro. Quindi è una forma di potere che è stravicina a tutti, non è divisa, non è che uno può dire fa la scelta che diventa uno dell'andrangheta, no. Tu lì sei l'andrangheta, non è che. I calabresi come sono? Mi dia qualche aggettivo. Sono tosti, anche lì in positivo e in negativo, hanno questo modo di essere molto chiusi che li fa quasi essere degli arieti, no? Nell'affrontare il mondo, che è positivo, perché quando si mettono a lavorare, a cercare di raggiungere gli obiettivi, sono potenti, e dall'altra parte però qualche volta non guardano al di là di quello che hanno davanti, no? Lei è impegnato in politica anche. Il cinema è l'evasione dalla vita reale e quindi in qualche modo opposto alla politica, o è mimesi della realtà e quindi deve anche raccontarla? Il cinema è tutto, è la vita, quindi ci sta la politica come non ci sta. Ma nella sua esperienza sono due cose che andavano insieme e si influenzavano a vicenda, o sono due cose invece parallele? Vanno parallele in realtà. Il cinema non è il luogo della politica, ecco, in assoluto non lo è luogo della vita. E la politica forse in maniera sana è solo una parte. Come sta vivendo il periodo politico attuale? Forse come tutti, vedendo una grandissima confusione. Il periodo lo trovo molto immobile, no? Molto palude, qui tutti si agitano, ma come dire, non vedo da nessuna parte sinceramente fatto di dire ecco, sto vedendo là qualcuno che oggi ha un'idea politica capace di confrontarsi col mondo, con la realtà. Viviamo un mondo dove abbiamo costruito tutto perfettamente, no? E poi vediamo in questi giorni appunto che succede, che nel Giappone, dove sono tutti belli inquadrati per produrre, per sopravvivere, per creare benessere, un'economia forte, e poi in realtà sono in balia degli eventi, e cosa viene fuori? La piccola viene umana. Fuori, sì, che non siamo in grado di gestire in quella maniera il mondo. La politica di gestire il mondo e la vita, citando un suo capolavoro, ma la parola amore esiste ancora? La parola esiste, sì, la parola amore esiste, ma credo che esista in tutti noi, questa è la cosa più importante. Esiste, però insomma qualche volta anche quella c'ha delle difficoltà a essere esiste, al primo posto. Nascosta. È un po' nascosta, ecco, non è al primo posto nella vita delle persone, questo perché hanno troppi problemi, e invece credo che forse bisognerebbe sempre ripartire da lì, dal fatto che sia al primo posto nella vita delle persone. Senta, stiamo festeggiando l'unità d'Italia. L'Italia, sì, secondo lei, è una? Sì, credo che sia unica, insomma, che c'è un'idea di anche da parte mia di appartenenza al territorio. È una, ma però deve combattere per essere una, nel senso che comunque per esempio la spaccatura tra il nord e il sud continua a essere molto molto forte. Quindi è come la Calabria, che è fatta da tante Calabrie, e l'Italia è fatta da tante Italie. Assolutamente, secondo me non c'è un'Italia, oltretutto non credo che ci sia un'Italia, ecco, perché se vado a Torino, come mi capita in questi giorni, ma corrono così, fanno una vita e hanno un'idea della vita, del lavoro molto diversa da quella che sto vivendo a Roma in questo momento, è un altro mondo. La prima edizione di Italia in Controluce termina qui, vi ricordo Facebook, Twitter, la mail controluce@radio24.it, su www.radio24.it trovate naturalmente il nostro blog e trovate anche il modo per scaricare tutte le puntate di Italia in Controluce. Torniamo oggi 13:30 su Radio 24.